Es ist 6 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Robert Levin. Guten Morgen. Westliche Staaten beschleunigen ihre Bemühungen, eigenes Personal aus Afghanistan vor den radikal-islamischen Taliban in Sicherheit zu bringen. In der Hauptstadt Kabul sind am Abend die ersten US-Soldaten eingetroffen. Sie sollen Botschaftsmitarbeitern bei der Ausreise helfen. Insgesamt schicken die USA 3000 Soldaten. Der Großteil soll bis morgen dort ankommen. Franziska Hoppen, WDR Washington. Sie sollen die Evakuierung von Teilen des Personals der US-Botschaft und Tausender einstiger afghanischer Mitarbeiter unterstützen. Nach Angaben des Pentagons können die USA täglich tausende Menschen aus dem Land ausfliegen. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte zwar, die afghanische Hauptstadt sei vom rasanten Vormarsch der radikal-islamischen Taliban nicht unmittelbar gefährdet. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Taliban anscheinend versuchten, Kabul zu isolieren. Nur wenige Wochen vor dem geplanten Abzug der verbliebenen US-Truppen kontrollieren die Taliban mehr als 2/3 Afghanistans und die Hälfte der Provinzhauptstädte. Die Zahl der Todesopfer durch das Hochwasser in der Türkei ist auf 38 gestiegen. Wie viele Menschen vermisst werden, ist der Katastrophenschutzbehörde zufolge noch unklar. Karin Senz, WDR Istanbul. Der türkische Präsident Erdogan besuchte gestern die betroffenen Regionen am Schwarzen Meer und versprach schnelle Hilfe. Man arbeite daran, die Wasser- und Stromversorgung wieder in Gang zu bringen. Menschen, die durch die Überschwemmungen obdachlos geworden sind, sollten so schnell wie möglich ein neues Haus bekommen, so Erdogan. Experten kritisieren, dass die Regierung immer wieder in Flussbetten habe bauen lassen. Der politische Wille richte sich nicht nach Wissenschaft oder Natur, sondern nach dem Kapital, so der Vorsitzende der Umweltingenieurskammer der Türkei, Karaman. Die türkische Regierung spricht von den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Für mehrere Regionen am Schwarzen Meer ist weiter teils heftiger Regen vorhergesagt. Weitere Meldungen im Überblick. In Frankreich stellen sich Behörden und Polizei das fünfte Wochenende in Folge auf Proteste von Gegnern der Corona-Regeln ein. Zehntausende werden bei Demonstrationen in mehreren Städten erwartet. Sie kritisieren die verschärften Nachweispflichten und die Anordnung, dass sich Personal im Gesundheitswesen impfen lassen muss. Die Regierung und die Opposition in Venezuela haben Bewegung in ihren jahrelangen Konflikt gebracht. Vertreter beider Seiten haben vereinbart, Gespräche zu beginnen, um die politische und wirtschaftliche Krise im Land zu beenden. Um die Macht in Venezuela streiten der linksgerichtete Staatschef Maduro und die Opposition um Juan Guaido, der von westlichen Ländern unterstützt wird. Eines der größten Musik- und Theaterfestivals Deutschlands ist früh am Morgen gestartet, die Ruhr-Triennale. In einer Maschinenhalle in Gladbeck ging es los mit einem Konzert im Morgengrauen, unter anderem mit Musik von Maurice Ravel. Die Ruhr-Triennale findet in alten Industriehallen in Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck statt. Bis Mitte September sind 110 Veranstaltungen geplant. Cosmo aus der Region. In Iserlohn sind nach einem Chemieunfall in einem Metallbetrieb 10 Menschen leicht verletzt worden. Dort war am späten Nachmittag Chlorgas ausgetreten. Christian Höper für WDR Aktuell. Ein Ende des Einsatzes ist aktuell noch nicht absehbar. Der Versuch, die Chemikalien abzupumpen, wurde zwischenzeitlich gestoppt, denn dabei stieg die Konzentration des Chlorgases und das wurde zur Gefahr für 350 Anwohner, die evakuiert werden mussten. Das giftige Gas war durch eine Reaktion zwischen Chlorschlamm und Salzsäure entstanden. Die Verbindung der Chemikalien sei normal in dem Betrieb. Vermutlich habe es Unstimmigkeiten bei der Konzentration gegeben, so die Feuerwehr. Für Anwohner in der Iserlohner Heide und Sümmern gilt noch die ganze Nacht, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute viel Sonne, vom Niederrhein über das nördliche Münsterland bis ins Mindener Land etwas mehr Wolken, aber trocken. Maximal 24 Grad in Wuppertal, 25 in Gütersloh, 27 in St. Augustin. Morgen mal Sonne, mal Wolken und weiter trocken bei 22 bis 26 Grad. Das war WDR Aktuell. Cosmo. Italia. Lo so che cosa mi volevi dire, che tanto penso solo ai fatti miei. Vabbè che tanto non mi puoi capire, ci conosciamo ma non so chi sei. Cambiamo locale, qui c'è troppo chiasso. Questa è la mia gente, lui è il mio amico grasso. Stringimi le mani, fai tu il primo passo. Portami lontano e dopo mi rilasso. ricordi il fondo del bicchiere, vuoi vedere che stavamo meglio se stavamo insieme, tutto bene, hai pianto e non lo fai vedere, lo sai, forse avrei fatto il cameriere se non fosse arrivata mai la musica, sia un grande sogno ma non sei reale, vengo dal niente e non si stava male, l'odio spaventa ma è peggio la fame, non ti mettere a tremare, che anche stanotte mi parla di te, sto in giro per la zona mia, tu che fai? Anche tu non me lo dici mai, è così strano ma pensavo che vorrei soltanto chiederti come stai, ma anche tu non me lo chiedi mai, ti giuro che ogni volta che parti, ogni volta che parti, vorrei sparisse Piazza Garibaldi, ogni volta che parti. So già che cosa mi volevi dire, ma speri che lo faccia al posto tuo, è un po' che non mi riesci più a capire, e se mi guardi non ti sembro io, ma io sono ancora quello di una volta, con la faccia tosta e la battuta pronta, siamo sempre stati bene anche nell'ombra, e ora vuoi saltare giù dal treno in corsa, mi ricordi il fondo del bicchiere, quelle sere in piena estate a fare niente nel quartiere, le promesse che non posso mantenere, ti guardo e ho l'impressione di cadere, e mi sembra una cosa così stupida, lo so da sempre che dovevi andare, vengo dal niente, non si stava male, e c'è silenzio in giro per le strade, posso sentirmi pensare, che anche stanotte mi parla di te, sto in giro per la zona mia, tu che fai? Anche tu non me lo dici mai, è così strano ma pensavo che vorrei soltanto chiederti come stai, ma anche tu che parti, ogni volta che parti, vorrei sparisse Piazza Garibaldi, ogni volta che parti. Facile inventarli, tu aspetti l'alba, tu aspetti l'alba, e ti concedi ad un inchino che l'imbarazzo è grande più di te, fuggi a chi guarda, fuggi agli atti che non sei in grado tu. Tu lo sai che nella fine ci sono tanti inizi da inventare, e ogni volta che accade, ogni volta che accade, ogni volta da capo, ogni volta non lo vorrei però, ogni volta ho rischiato per la gioia di un minuto dire d'essere vissuto fino al tempo di un saluto. Ogni volta un tramonto da guardare fino in fondo. E mi racconti di domani, non c'è nessuno bravo più di te a fare l'alba, a

Vorrei che sia l'unica ragazza che mi tolga l'appetito. Tu mi strappi il cuore e poi ci passi sopra, come un fulmine che squarcia il cielo. Tu che mi attraversi, fallo un'altra volta, come un proiettile che lascia il segno. Prima conoscevo solo la paura. Lascia che tu sia una mia fantasia, prima che riapra gli occhi e ti porti via. La mente è il nostro hotel, ma tu in che stanza sei? Voglio mettermi nei guai a partire da adesso, a partire da te. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, chiudi quella porta e sparisci. Forse ciao suona meglio di addio. Non lascerò mai poggiare la tua testa sul letto senza la mia mano dietro. Abbiamo il pomeriggio, la tua pelle come porcellana, le tue labbra sono chewing gum da masticare zitti. E tu sei così bella che a volte fai male, gioco nervosamente con il telefono in mano. Non so nemmeno se esisti, il mio cuore è cambiato, hai giocato con lui finché non si è scaricato. E tu mi strappi il cuore e poi ci passi sopra, come un fulmine che squarcia il cielo. Tu che mi attraversi, fallo un'altra volta, come un proiettile che lascia il segno. Prima conoscevo solo la paura. Lascia che tu sia una mia fantasia, prima che riapra gli occhi e ti portino via. La mente è il nostro hotel, ma tu in che stanza sei? Voglio mettermi nei guai a partire da adesso, a partire da te. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, chiudi quella porta e sparisci. Forse ciao suona meglio di addio. Immaginarti è difficile adesso, arrivi e sparisci in silenzio. Mi sta sfuggendo di mano di noi, conosco solo il divario, centimetri e mezzo. I miei ricordi confondono i sogni, sto riempiendo gli spazi con cose di noi. Conosco solo il divario, centimetri e mezzo. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, chiudi quella porta e sparisci. Forse ciao suona meglio di addio. Forse ciao suona meglio di addio. Come vi è venuto in mente? È tardi, tardi, tardi, tardi, tardi. Per me si rena tra la gente. Portaci a bere in fondo al mare, organizziamo un carnevale, faremo quello che tu vuoi. Saremo i tuoi toy boy. Scafo che ci aspetta, e allora mi preparo in fretta. Abbiamo già i biglietti in tasca, io tiro su qualche cosetta. Non serve a niente, lascia stare. Vedrai, vedrai, vedrai. Faremo il bagno tutti nudi, a fine cudi o da licudi. Faremo quello che tu vuoi. Ma non voglio niente, io devo essere. tuoi toy boy. Capitare questi due tra una cacciassa e una lambada, ognuno sceglie la sua strada. Io per esempio torno a casa, voi fate quello che volete. Ti prego spegni questa sete, saremo i tuoi. Provate a ritornare, qualche cosa magari si può fare. Degli altri, ehi, non c'è tempo, tanto sono fatti nostri. Non c'è tempo, rimediamo ai disastri. Ehi, non c'è tempo, zero tempo per gli scontri. Corri, corri, co, corri, co. Con l'avocado e l'Amazzonia brucia perché vuoi. Magna l'asado, slow food, fast money, neuroni in estinzione. Meno giri di parole se ognuno fa la sua rivoluzione. Anche perché non c'è tempo, anche se la colpa è degli altri. Ehi, non c'è tempo, tanto sono fatti nostri. Non c'è tempo, rimediamo agli disastri. Ehi, non c'è tempo, zero tempo per gli scontri. Corri, corri, co, corri, co. Corri, corri, corri, guaio. Corri, corri, co, corri, co. Corri, corri, corri, guaio. Corri, corri, co, corri. Degli altri. Ehi, non c'è tempo, tanto sono fatti nostri. Non c'è tempo, rimediamo ai disastri. Ehi, non c'è tempo, zero tempo per gli scontri. Corri, corri, corri, corri. Cosmo, Italia. Forse ho sbagliato a parlarti di me, scusami che disastro. Quello che provo per te sembra avorio ma invece alabastro. Ti ho scritto un libro di pagine vuote ma non ci riesco a stare qui con te. Ma il fuoco amico scheggi impazzito adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri, poco prima che mi chiami? Sento tutti i tuoi respiri, mi sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi, ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta,

te. Stanotte vedo il mondo che c'è oltre. Quanto tempo hai sprecato a dirmi mezza verità, ma invece non lo sai che male che ti fai. Ti nascondi dentro te. Lo so perché ho le tasche piene di niente, le luci sfifano niente. Se parli piano, chi sente la notte? Parla sopra di me. Le tasche piene di niente, le stelle appese di niente. Se parli piano, chi sente la notte? Parla sopra di noi. Spiegami com'è che a volte vedi muore non le porte. Stai in silenzio di nuovo, tutto grigio dentro un bar. Dentro c'è i colori come spezia Grand Bazaar. Ti nascondi in un cliché. Sei un altro te. Ho le tasche piene di niente, le luci si fanno niente. Se parli piano, chi sente la notte? Parla sopra di un tasche piene di niente, le stelle appese di niente. Se parli piano, chi sente la notte? Parla sopra di noi. Passa e la guardiamo andare in silenzio. Tu mi sferi le labbra e mi prometti ci vedremo presto. E sparirà la sabbia, si lascerà trascinare dal vento. È vuota quella piazza, ricordo quando ci stavamo in cento. D'assesi sulla riva all'alto mare, quante giornate ho visto cominciare. La luce spenta adesso in quel locale, dove andavamo per gridare. No! Ricorderai. E siamo soli in spiaggia, se non abbiamo bisogno di niente. Se sei tra le mie braccia, giuro stanotte durerà per sempre. Mi risfiori le labbra e restiamo insieme fino alle sette. E sparirà anche l'alba tra baci che sanno di sigarette. D'assesi sulla riva all'alto mare, quante giornate ho visto cominciare. La luce spenta adesso in quel locale, ci torneremo per gridare. No, non mi importa di niente, io l'ultima notte la passo con te. Prendi da bere e portami. Solo io e te, dimmi che ti ricordi.

Faccio fatica a credere al medico. Sono scettico e credo all'oroscopo. Oggi dice giornata speciale, ma sono bloccato nel traffico. Mi chiama mia madre, sono in ritardo. Non va neanche l'aria, si muore di caldo. Vorrei vivere al largo, come Rosa parlare esperanto. Accendo una sigaretta al contrario. Siamo partiti male. Bagnino, c'è un'estate da salvare. C'è una donna da dimenticare. Come mai ti piace stare da sola? Ti dirò che sei tu la mia regina. Sei la più bella del mondo, giuro che non c'è nessuno. Stasera Teresa, resto in attesa che mi richiami. Io sono in fila per un ombrellone da un po', appunto al bar come fosse un poligono. Scusa, mi faccio il mare Adriatico? Ti cerco qui spiazza ma non ti trovo. Ho messo l'annuncio sul Publifono. Smarrita ragazza ventenne, la cerca il suo nuovo amoroso. Accendo una sigaretta al contrario. Siamo partiti male. Bagnino, c'è un'estate da salvare, c'è una donna da conquistare. Come mai ti piace stare da sola? Ti dirò che sei tu la mia regina. Nessuna come te, lo so che lo sai, mi gioco tutto stasera.